staccati un momento da Facebook. Prendi tempo, il silenzio è una sinfonia. Quando mi sei accanto, quando la luce risplende e diventa incandescente, non c'è cosa migliore che sentire il tuo profumo, amore. Il vento colora d'azzurro nel giardino i cancelli di ferro. Tutto adesso mi è chiaro quando sei dentro al mio seno. Anche il cielo sembra più vicino ed io come un bambino sorrido sereno sereno. Se ti acchiappo ti faccio vedere chi sono. Fata che illumini il mondo, a te appartengono tutti i nomi del vento. Tu sei il mio paradiso, tutte le reti, il mio chicco di riso. Tu la strada da attraversare, con te a cavallo, a cavalcare. Nelle sere quando il freddo l'inverno ci accartoccia come castagne è mio sogno. In te vedo tutto il firmamento, tutte le barche al riparo dal vento, i gamberetti che si pescano al porto, i piedi al caldo nella sabbia di agosto, ad occhi aperti ad aspettare l'aurora. Quando sei qui ogni notte è lontana, in controluce andiamo controcorrente. Io nel tuo cielo, mia sposa, mia amante. Non essere gelosa, che non c'è nulla per cui chiedere scusa. La rete ha un porto di mare, dove attraccare la mia anima al sole. Tanti fiumi invisibili, ponti, tanti canali, tutti splendenti, di pescatori, di belle genti, unite tutte come stelle filanti. Poeti che gridano pianto, marinai che seguono il vento, pescatori di trote d'argento, ribelli che cambiano il mondo, menestrelli che cercano gloria, solitudini in cerca di una storia. E poi ci sono quelli come me, che provano a dare il meglio di sé. Fata che illumini il mondo, a te appartengono tutti i nomi del vento. Tu sei il mio paradiso, tutte le reti, il mio chicco di riso. Tu la strada da attraversare, con te a cavallo, a cavalcare. Nelle sere quando il freddo l'inverno ci accartoccia come castagne, mio sogno. In te vedo tutto il firmamento, tutte le barche al riparo dal vento, i gamberetti che si pescano al porto, i piedi al caldo nella sabbia di agosto, ad occhi aperti ad aspettare l'aurora. Quando sei qui ogni notte è lontana, in controluce andiamo controcorrente. Io nel tuo cielo, mia sposa, mia amante. Tu sei la mia rete, senza di te ho sempre sete. Cosa farei con la mia arte di barca se non ti avessi nella mia terna rotta? Cosa sarebbe questo cielo senza le nuvole, senza il tuo mistero? Non abbiamo bisogno del mondo, ma abbracciarlo è come crescere un figlio. Fata che illumini il mondo, a te appartengono tutti i nomi del vento. Tu sei il mio paradiso, tutte le reti, il mio chicco di riso. Tu la strada da attraversare, con te a cavallo, a cavalcare. Nelle sere quando il freddo l'inverno ci accartoccia come castagne, mio sogno. In te vedo tutto il firmamento, tutte le barche al riparo dal vento, i gamberetti che si pescano al porto, i piedi al caldo nella sabbia di agosto, ad occhi aperti ad aspettare l'aurora. Quando sei qui ogni notte è lontana, in controluce andiamo controcorrente. Io nel tuo cielo, mia sposa, mia amante.